Dell'estate è andata, è volata sola in silenzio, per ora ancora non si è spento, ritroverai l'amore quando vorrai, è pacifico, di tutto ti appaia, è pacifico, l'uomo nel mondo non va, è pacifico, che duro ingranare, è pacifico. Che prima o poi succederà, è pacifico, che tutto ti appaia, è pacifico, l'uomo nel mondo non va, è pacifico, che dura ingranare, è pacifico, che prima o poi succederà. Pacifico, che tutto ti appaia, è pacifico, l'uomo nel mondo non va, è pacifico, che dura ingranare, è pacifico, che prima o poi succederà, è pacifico, che tutto ti appaia, è pacifico, l'uomo nel mondo non va, è pacifico. Pure ingranare è pacifico, che prima o poi succederà.